saluto ridendo. No, aspetta le dici, il cuor non batte, o non lo sento. Grazie al velluto del potre, c'ho gusto da fe, c'ho gusto da fe. Ora va, tiro di e ridi, non batte, bene. Io pur vidi Mimì la vista, oh guarda, era in carra vestita come una regina. Viva ne son contento, mucho ardo si stucce d'amor, lavoriam, lavoriam. Penna infame, che infame pennello. Yeah. zamparone, grata un tallone. Tutta una ninfa di pappagallo. Grazie, bellezza, stasera un ballo. Thank you. si morro, senti, io resto alla pioggia, tu a scender il sacro monte ardenti. Le mie grazie ricevi, ma in oltre posti il luogo radarso ai ricchi e ai potenti, o far nelle tue tasche come gli altri tranquilli filosofi e poeti. Ora che i giorni lieti fuggire in Ildo, Dio, fedele amico mio, addio. Ho veduto il dottore, verrà, io faccio fretta, ecco il cardiale. che sia grave? Non credo. Marcello, è spiegata. Vedi, è tranquillo. Che vuol dire quell'andare a venire, quel guardarmi così? Coraggio!